Pronta a sederci? A Sì, io sto di qua come ieri. che distanza? Perché? Io direi mezzo metro, come insegnano i cinesi. Oh, signore, Ecco adesso. qua, mezzo metro la distanza anti-flirting in Cina, Va a bene, scuola. guarda, tranquilla che non ho nessuna intenzione di flirtare con te. Tra l'altro, non ho ancora comprato le bacche di goji che mi ha detto ieri il dottor Ungaro. Non ti preoccupare perché io stamattina non ce l'ho fatta, ma andrò oggi pomeriggio a fare la spesa, ahimè, un salasso, Esatto. e comp ti comprerò e ti regalerò. Voilà. Le bacche di goji. Sì. Facciamo il conto alla rovescia come ieri prima di partire. Secondo te porta buono? Porta buono. 5, 4, 3, 2, 1. via! Cuore e denari. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La prevenzione è giovane, ma giovanissimo è l'inventore di un esame che permetterà di individuare il tumore al pancreas nelle fasi iniziali. Sarà disponibile tra qualche anno. Nel frattempo, noi continuiamo a investire nella prevenzione. Oggi ne parleremo con i nostri esperti. Prevenzione intesa come controlli da fare, ma anche prevenzione come stile di vita. E se è vero che siamo quello che mangiamo, il carrello della spesa diventa un nostro alleato. Se volete parlare di prevenzione con noi, 800 24 00 24, dai controlli da fare a quello che mettiamo nel piatto. Eh sì, due temi che si legano strettamente: alimentazione per prevenire problemi di salute e carrello della spesa che sta cambiando a causa delle difficoltà economiche in cui molte famiglie versano. Gli italiani riducono da qualche tempo la quantità, ma adesso cambiano anche la qualità dei prodotti che comprano. E voi come state riorganizzando il carrello della spesa? Ci faremo dare qualche consiglio da un esperto per fare una spesa di qualità senza spendere troppo e senza troppe rinunce. E chiederemo ai nostri esperti di prevenzione di fare la spesa con noi. Ci sono alcuni alimenti che pesano sul nostro portafoglio, li individueremo per concentrarci su quelli che invece ci fanno guadagnare salute, perché la spesa è una voce importante nel bilancio delle famiglie. E a proposito di bilancio, se il carrello della spesa si è ridotto è perché per molti la busta paga piange, è un tema che interessa a tutte le persone che ci ascoltano. La busta paga, visto che molti aspettano che questa sia più ricca, se verrà tagliato come promesso il cuneo fiscale, noi oggi vi spiegheremo quali sono le voci più importanti di questo documento. Se non ne capite qualcuna, chiamateci all'800 24 00 24 e vi risponderemo a partire dalle 12:10. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Io bevo Oliveto, acqua della salute. Vi presenta Essere e benessere. Si chiama Thomas Andrake, americano del Maryland, e ha solo 16 anni. Di lui stanno parlando tutti i giornali perché ha ideato e brevettato un nuovo metodo per diagnosticare in fase iniziale il tumore del pancreas. Affidabile e poco costoso, il test sarà pronto tra qualche anno. Nell'attesa, noi leggiamo la notizia insieme al dottor Giampaolo Balsano, responsabile dell'unità di chirurgia pancreatica del San Raffaele di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Insomma, cominciamo dicendo che quando si parla di tumore del pancreas, qualunque notizia su una nuova scoperta è comunque una buona notizia, perché abbiamo bisogno sempre di armi più efficaci per combattere questa terribile malattia. Ora, sembra che questo piccolo genio di 16 anni, che è stato però supportato nella ricerca da un professore di un'importante università americana, abbia messo a punto un test per rilevare nel sangue e nelle urine dei pazienti la presenza di una proteina chiamata mesotelina, che viene espressa da alcuni tumori, fra cui quello del pancreas. Questa proteina, nei prossimi anni, potrebbe rivelarsi un buon marcatore della presenza di tumore del pancreas, aggiungendosi ai marcatori tumorali che sono già disponibili. Però la mia opinione è che per il momento la notizia più interessante, più che la rilevanza scientifica, mi sembra l'età del giovane ricercatore, perché siamo ancora in una fase primordiale della ricerca. Per il momento ne hanno parlato primi giornali e televisioni che la letteratura scientifica, non esiste ancora nessuno studio scientifico che abbia confrontato questa nuova proteina con i marcatori disponibili, per cui non sappiamo ancora se questo test potrà offrire un miglioramento nella diagnosi del tumore del pancreas e soprattutto nella diagnosi precoce del tumore del pancreas. Quindi, dottor Balsano, stiamo, come si dice, a vedere, ma noi al momento è possibile diagnosticare precocemente un tumore del pancreas? In questi anni abbiamo fatto dei passi importanti, passi avanti importanti nella diagnosi precoce del tumore del pancreas, perché sono state identificate alcune lesioni pancreatiche che possono essere pretumorali e quindi possono essere tenute sotto controllo e asportate chirurgicamente prima che si possano trasformare in un tumore maligno. Si tratta sostanzialmente di cisti del pancreas, che sono lesioni che contengono liquido. Alcune di queste cisti fortunatamente sono del tutto innocenti, ma altre contengono un liquido che noi chiamiamo mucinoso, un liquido denso, e sono queste le cisti che possono evolvere poi verso un tumore maligno. Quindi abbiamo imparato a riconoscere le cisti a rischio di trasformazione, abbiamo imparato ad identificare quelli che sono i cambiamenti che indicano poi la prossima trasformazione della cisti in un tumore maligno. E quindi il messaggio potrebbe essere questo: quando si trova una cisti del pancreas è necessario rivolgersi ad un centro specializzato per dare a quella cisti un'etichetta, un nome e un cognome, certo. Insomma, per stabilire se tratta di una cisti innocente oppure se è una di quelle che merita di essere tenute sotto controllo o magari essere asportate anche subito. Stavo facendo questo pensiero mentre ascoltavo la vostra conversazione, che questo tumore è quello che ha portato via Steve Jobs, e chissà come avrebbe guardato e giudicato la capacità di questo giovane del Maryland che ha brevettato questo metodo diagnostico. Professor Balzano, che ne pensa? Beh, lui sarebbe stato entusiasta, anche se purtroppo non avrebbe ancora avuto nessun beneficio nella sua evoluzione di quella che era stata la sua malattia. Però sicuramente tutte queste innovazioni sono molto interessanti. Dottor Balzano, prima di salutarci, oggi noi parliamo di prevenzione a tutto tondo. Si può fare prevenzione? Ci sono dei fattori di rischio che è bene conoscere e su cui possiamo lavorare per questo tumore? Beh, certo, insomma, il più importante fattore di rischio per tutti i tumori e anche per il tumore del pancreas è come sempre il fumo. Il fumatore ha un rischio di sviluppare il tumore del pancreas che è il doppio di un non fumatore. E poi c'è un altro fattore di rischio comunque su cui si può lavorare in termini di prevenzione, e che è l'obesità. Oltre a tutti i danni che l'obesità può fare, anche l'obesità è un fattore che favorisce la comparsa di tumori e in particolare anche del tumore del pancreas. Poi vabbè, l'ultimo fattore di rischio riconosciuto per il tumore del pancreas è comunque il diabete dell'anziano, ecco, non il diabete giovanile. Però appunto sui due fattori, che sono il fumo e l'obesità, sicuramente possiamo lavorare. Si può lavorare. Grazie dottor Balzano per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Buona giornata anche da parte mia. Grazie a voi, buona giornata. Allora, che prendete? Un paio di bistecche, Link? Per me, per Mike, pollo. Pollo fritto e... No, mi scusi, la signora evidentemente non sa molto di alimentazione. Un pasto a base di pollo fritto e patate fritte, signora, contiene circa 1000 calorie e il 50% di grassi. Questi dati sono stati associati a casi di disturbi cardiaci. Allora che vuoi mangiare? Insalata di tonno, pane integrale e acqua con limone, per favore. Prevenzione è la parola d'ordine, parleremo naturalmente di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria. Noi sappiamo, lo ripetiamo tante volte, ce lo sentiamo ripetere, che lo stile di vita è un alleato prezioso contro il cancro, intervenendo sui principali fattori di rischio, quali fumo, come diceva il dottor Balzano, ma anche alcol, alimentazione e attività fisica, si può ridurre il rischio di avere un cancro anche fino al 50%. Lo ricorda la direttrice dell'Associazione delle Leghe Europee contro il cancro. Ne parliamo oggi insieme alla dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di EO, che è tornata a trovarci. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora. Buongiorno anche a lei, grazie. Da cuore e da denari. Esatto, anche perché il tema di cui parleremo in realtà si lega molto anche all'aspetto economico, ma ci arriveremo fra qualche istante. Noi ci concentreremo insieme alla dottoressa Luini sulla prevenzione che possiamo fare a tavola, quindi partiremo dal carrello della spesa. Esatto, parleremo del carrello della spesa e parleremo anche di educazione alimentare, che è bene cominciare a fare fin da piccoli, perché poi investire in salute significa anche investire nello stile di vita e risparmiare qualcosa nel corso del tempo. 800 24 00 24 se volete conoscere l'azione protettiva e preventiva degli alimenti per portarla a tavola più spesso, ma noi vogliamo parlare oggi anche di quegli alimenti il cui consumo in eccesso è considerato a rischio in alcuni tipi di tumore, che sembrano essere più sensibili di altri agli effetti del cibo. Ma non parleremo solo di cibo, parleremo anche di controlli, degli esami che oggi sono disponibili per controllare la nostra salute. Se vi siete sottoposti a screening o avete in programma di farlo, chiamateci. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno dottor Gargiulo, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, ben trovate tutte e due. Grazie dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, la prevenzione secondaria è fondamentale perché mira a individuare la malattia quando è più facilmente curabile, se diagnosticato nello stadio iniziale, lo sappiamo, il tumore può essere affrontato con maggiore efficacia e minor effetti collaterali, ma come si legge anche oggi sulla stampa, un articolo di Alessandro Mondo ci riporta d'attualità un problema, liste d'attesa per le visite mediche, ecco i numeri della vergogna. La situazione descritta è riferita al Piemonte, ma scrive: per poter fare una mammografia occorrono quasi 400 giorni. E un ascoltatore mi scrive: prevenzione ticket, per fare gli esami completi di sangue e urine ci vogliono quasi 60 euro. E poi come faccio a fare la spesa, Max da Firenze? Giustamente ha ben relazionato i temi che noi anche abbiamo messo in relazione quest'oggi. Quindi, nel nostro programma. Deborah, abbiamo due esperti, chiediamo a loro che cosa si può fare, come leggono questa situazione. Dottor Gargiulo, vengo da lei. Eccomi qua. Beh, diciamo che intanto la programmazione può essere un buon elemento per riuscire a superare una lista d'attesa così lunga. Programmazione vuol dire che se io oggi faccio un esame e so che a distanza di un anno dovrò ripetere quell'esame, ma anche il giorno dopo potrei prendere la prenotazione. Non è troppo presto, quindi la prendiamo in tempo utile per poterci ripresentare, magari a fare un esame mammografico, un esame ecografico alla mammella, in tempo giusto come distanza dall'esame precedente. È chiaro che poi se in questo anno succedono delle cose per cui bisogna fare degli esami o degli accertamenti, anticiparli, si ammettono in linea quelle che sono le corsie preferenziali. Non dimentichiamoci che le liste di attesa è vero che sono molto lunghe, ma esistono in tutte le regioni delle corsie preferenziali dove il medico di famiglia può, anzi deve, se a seconda della situazione e della gravità del caso, attivare una corsia dove nel termine di 10-15 giorni massimo si riesce ad ottenere un esame. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi per raccontarci e descriverci una situazione, una lista d'attesa molto lunga, un esame che avete dovuto rimandare o saltare, denunciare magari un ritardo, ma soprattutto se volete parlare con noi di prevenzione, che cosa possiamo fare noi concretamente, quanto spetta a noi come stile di vita e come possiamo organizzare dei controlli ben cadenzati. C'è un aspetto fondamentale, credo Nicoletta, questo l'ho appreso anche sentendo le tue trasmissioni negli ultimi anni, che è quello dell'età. Sicuramente non è mai troppo presto per iniziare a fare prevenzione in ogni campo, ma mi chiedo, lo vorrei chiedere ai tuoi esperti, se la data fondamentale, anche molto critica dal punto di vista femminile, dei 40 anni ci dà un'indicazione in più rispetto ai controlli preventivi da fare. Dottoressa Luini. L'età dei 40 era effettivamente considerata l'età al di sopra della quale iniziare alcuni controlli. In verità adesso è l'età dei 30 per la donna, quella un po' più critica se parliamo di prevenzione, cioè diagnosi precoce al seno. L'età delle donne con tumore al seno si è molto abbassata e quindi dai 30 anni in poi è opportuno controllarsi il seno. Per quanto riguarda invece il controllo che una donna può fare alla propria sfera ginecologica, quindi all'utero, non c'è età, perché quando inizia l'attività sessuale si dovrebbe iniziare anche a sottoporsi a controllo. Dottor Gargiulo, abbiamo iniziato con una distinzione di genere, abbiamo ricordato gli esami, e rimando le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a riascoltare la puntata sulla prevenzione al seno che abbiamo dedicato il 1 di ottobre, questo è il mese della prevenzione per il tumore al seno, parliamo anche di maschi, di uomini, esatto. I maschi come si diceva alle elementari, e andiamo al PSA, l'acronimo di antigene prostatico specifico, medichese a parte. Possiamo dire che il PSA è una sostanza chimica presente nel sangue, prodotta prevalentemente dalle cellule epiteliali della prostata. Se è presente in quantità elevata, potrebbe rilevare la presenza di una neoplasia. Ma sempre Nicoletta, un trentellode non se lo perde. Bene, oh grazie, bene, che in queste puntate di inizio i complimenti fanno. La prima ad averlo preso sei stata tu, quindi i miei complimenti. Adesso me ne devo guadagnare uno anche io, più tardi. Allora, Gargiulo, PSA, un esame che è abbastanza discusso, ne avrete letto molto sui giornali, in realtà oggi noi sappiamo che eseguire un PSA dopo i 50 anni, forse anche dopo i 45, una volta l'anno, ci aiuta a diagnosticare precocemente il tumore della prostata. Io vi parlo di un'esperienza prevalentemente professionale e di studio e devo dire che nell'arco di questi anni, seguendo i miei pazienti e seguendoli con più attenzione per quello che riguarda la prostata, abbiamo ottenuto dei risultati clamorosi. Oggi riusciamo a trattare il tumore della prostata senza interventi demolitivi, trattarlo precocemente, riusciamo ad arrivare bene a fare la diagnosi precoce e quella prevenzione secondaria di cui parlava tanto bene prima. Quindi questo è un dato importante, non dimentichiamocelo, un anno e mezzo fra un esame e l'altro, ma ricordiamoci di eseguirlo, quindi mettiamolo in agenda. Questa dovrebbe essere l'altra cosa importantissima. La nostra agenda, oltre agli appuntamenti di lavoro, dovrebbe contenere, e a inizio anno potremo farlo, il giorno in cui dobbiamo fare un esame, il giorno in cui dobbiamo sottoporci ad alcuni controlli per avere sotto controllo la situazione del nostro corpo. Io darei la parola a Giacomo che ci chiama dalla provincia di Genova all'800240024. Come sapete, non dimentichiamo che potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter oppure scriverci un messaggio a Cuore Denari, tutto attaccato, @radio24.it. Ieri ci ho messo in mezzo anche l'indirizzo del vecchio programma, ma non importa, ci potete trovare anche gli indirizzi tradizionali. Ribadisco, Cuore Denari, tutto attaccato, @radio24.it. E soprattutto chiamateci se volete parlare di alimentazione. Oggi facciamo proprio il punto su quello che è importante mettere a tavola per proteggere la nostra salute. Parleremo poi naturalmente anche dei tumori che sono più sensibili agli effetti del cibo, insieme alla dottoressa Luini e al dottor Gargiulo. Giacomo, buongiorno dalla provincia di buongiorno. Genova. Buongiorno a lei. Buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro, vada. Grazie. Volevo fare una domanda al dottor Gargiulo e anche a voi. Io ho fatto recentemente un'ecografia e mi hanno trovato del fango biliare. Volevo sapere se con l'alimentazione o forse anche con delle medicine, ma hanno detto che sono meno efficaci, se con l'alimentazione si può prevenire questo fango biliare, la crescita di questo fango biliare. Che poi mi hanno detto che si dovrebbero col tempo trasformare in piccoli calcoli biliari, che sono molto difficili da eliminare. Dottor Gargiulo? Grazie. Esperti, i nostri ascoltatori, effettivamente è così, il fango biliare può trasformarsi in un calcolo, si aggregano queste piccole concrezioni e diventa un calcolo. Come prevenirlo? Esistono dei farmaci che servono a rendere la bile più fluida, l'acido urso desossicolico, un nome difficile per una molecola che è molto utile, e può essere utilizzato per lungo termine per riuscire a pulire un pochino questa bile. Ancora bisogna bere molto e soprattutto evitare i pasti troppo grassi, perché i pasti troppo grassi spremono la colecisti, il serbatoio della bile, e quindi rischiano di far aumentare un po' questo fango biliare. Non è una cosa preoccupante, finché è fango, cioè finché non si vedono calcoli, riesce a defluire, a uscire dalla nostra colecisti e non crea problemi. Il calcolo invece si può incuneare, mettere all'interno dei dotti biliari e a quel punto creare qualche problema. Ci sono molti messaggi interessanti che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, anche delle nostre ascoltatrici. C'è chi ci racconta che ha allattato tanto al seno come Elisa, e questo lei chiede di sapere appunto se può in qualche maniera aiutarla a prevenire un eventuale tumore al seno, e chiede, avendo 40 anni, se deve già fare una mammografia. Poi molte ascoltatrici, Nicoletta, incuriosita dall'informazione che hai dato prima sul mese della prevenzione senologica. In che cosa consiste questa iniziativa? Allora, abbiamo la dottoressa Luini con cui abbiamo proprio parlato sia del mese sia di tutti i fattori che proteggono la salute delle donne. Dottoressa Luini. Sì, intanto rispondo all'ascoltatrice che dai 40 anni si inizia a fare la mammografia, e la mammografia insieme all'ecografia è lo strumento che dai 40 anni in poi si dovrebbe usare ogni anno, e lo dico a ragion veduta, perché una mammografia all'anno dai 40 anni in poi ha dimostrato di ridurre il rischio di morire per tumore al seno del 50%. Quindi la mammografia dai 40 anni va iniziata, e poi sarà il radiologo a suggerire, diciamo, la cadenza. Una cadenza annuale comunque è una cadenza prudente anche con l'ecografia mammaria. Quindi questa è la risposta per l'ascoltatrice, che credo volesse sapere questo. Il mese della prevenzione, ottobre, il mese rosa, è un mese che viene declinato in vario modo dai vari enti, dalle associazioni, lo IEO ha deciso, oltre a fare la solita attività di diagnosi precoce e di cura, di dedicarsi all'informazione, perché l'informazione è la strada più importante. Assolutamente. Cioè, le donne appunto devono sapere cosa fare e cosa non fare. Il fatto che voi stiate ricevendo così tanti messaggi dimostra che la gente che vuol sapere. Ha bisogno, no? Di sapere. Certo, bisogna spiegare le cose esattamente come dovrebbero essere fatte sulla base di ciò che la scienza oggi sa. Quindi il mese rosa è un mese di consapevolezza, non significa che ci si debba controllare solo a ottobre, significa che le donne hanno il diritto di conoscere gli strumenti di prevenzione, sia essa primaria, cioè cosa posso fare per non ammalarmi, sia essa secondaria, cioè la diagnosi precoce, in modo tale poi da gestirsi nel loro quotidiano. Quindi è un mese di sensibilizzazione nei confronti degli strumenti che abbiamo per ammalarci di meno o per guarire più in fretta se ci ammaliamo. Dottor Gargiulo, rapidamente ricordiamo un esame unisex, perché abbiamo parlato di prostata, abbiamo parlato di seno, di utero, ma c'è un esame unisex che è il sangue occulto nelle feci, naturalmente. Okay. È un esame semplicissimo, molto economico, si può fare tranquillamente a casa e serve a dimostrare la presenza di piccole tracce di sangue che noi non vediamo all'interno del nostro intestino. Questo sangue può venire alle emorroidi, è vero, ma può anche venire da un polipo all'interno del colon, un polipo che è una lesione precancerosa a tutti gli effetti. Non quindi ci dobbiamo spaventare. Restate con noi, ricordate che cosa state facendo, che cosa avete controllato, che cosa dovete controllare. Un ascoltatore ci scrive: diventare donatore di sangue fa bene alla salute e al portafoglio, gli esami sono gratis, la coscienza è a posto. Ci saluta un donatore. 800 24 00 24. Tra poco ci siederemo a tavola, adesso? Adesso ci sono i mercati. Cuore e denari. Quanto è bella la nostra sigla, molto. Posso dirlo? Veramente. Dottoressa Luini, le piace? Bellissima. Bellissima. Ah, i complimenti a Deborah per le borse, perché mancavano i complimenti a lei, quindi complimenti. Però non ho ancora ricevuto il 30 lode e adesso vediamo come me lo potrò guadagnare nel corso dei prossimi giorni. Grazie, dottoressa. Intanto, dottoressa Luini, vogliamo affrontare in questa parte del programma, lo abbiamo anticipato, il rapporto che è molto stretto tra ciò che mangiamo e come stiamo, e soprattutto quanto la dieta, il nostro stile alimentare può essere responsabile della nascita e dello sviluppo dei tumori. 800 24 00 24, molti di noi evitano o riducono alcuni alimenti perché ne hanno sentito parlare, magari fanno delle scelte alimentari differenti, molti cercano però di adeguarsi alle indicazioni dei medici ma non ce la fanno, le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno non sempre si riescono a consumare, e non è, Deborah, solo un problema di gusti. È un problema anche di soldi ultimamente, ne parleremo a partire dalle 11.45, perché si è drasticamente riorganizzato lo stile di vita e di consumo delle famiglie italiane, che spendono sempre di meno al supermercato, il carrello della spesa è molto cambiato rispetto a qualche anno fa, si consuma meno carne, si consuma anche meno pesce, poi ne parleremo anche per capire questo che cosa significa ai fini del tema appunto preventivo, per cui adesso dovremo anche dare dei suggerimenti ai nostri ascoltatori per fare un dignitoso carrello della spesa senza però rinunciare anche a troppi alimenti di qualità. Dottoressa Luini, in che modo gli alimenti agiscono sulla nascita e lo sviluppo dei tumori? Sappiamo la percentuale ma non abbiamo ben capito il meccanismo. Come? Sì, intanto la quantità degli alimenti influisce sulla longevità e sulla salute. Meno mangiamo, ovviamente compatibilmente con uno stato di benessere e non di fame, meglio è, perché a quanto pare mangiare tanto, quindi aumentare l'apporto calorico, riduce la probabilità di salute e di longevità. Quindi questo già è un discorso di quantità. Poi c'è la qualità, perché il cibo può agire negativamente oppure positivamente sul nostro DNA. Esistono cibi che spaccano il DNA e cibi che invece sono capaci addirittura di riparare i danni nel DNA. Quindi possiamo immaginare quanto sia importante scegliere opportunamente il cibo. Un altro meccanismo che può essere, per esempio, responsabile di malattia tumorale oppure cardiaca è l'alterazione del metabolismo. Se mi va su troppo lo zucchero nel sangue, se va sul colesterolo, se vanno su i grassi nel sangue, questo non solo mi predispone a guai cardiologici nell'immediato, ma anche aumenta la probabilità di tumore. In tutto questo, allora, capiamo perché quasi il 50% della responsabilità di tante malattie tumorali possa essere attribuito allo stile di vita, quindi anche al cibo. Abbiamo Marco da Varese ed Emiliano dalla provincia di Trento, ma Cuore Denari aspettano anche le amiche di Cuore Denari. Eh sì, ce lo spieghiamo, insomma, stanno scrivendo in molte però, Nicoletta, per cui se sono un po' timide magari per il telefono sicuramente scrivono. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, eccoci. Complimenti a tutti. Oh, bravo, due altre trente lode, vai Marco. Ecco, è una domanda a cui tenevo veramente, se fosse possibile da parte del dottor Gargiulo di Pochi, una risposta. Visto che il problema della prostata negli uomini è diventato esponenziale, io tra l'altro una familiarità, ho 52 anni, da 45 mi sottopongo ogni due anni, però effettivamente, a parte il fatto di memorizzare questi, ma sotto l'aspetto anche economico non è così da poco, perché PSA libero, PSA totale, il costo è quello che è. Siccome nell'uomo è un problema veramente che sta diventando massiccio, perché non è previsto uno screening sopra i 50 anni come il tumore alla mammella per le donne? Prima domanda. E seconda, breve, sempre riguardante noi maschietti, siccome una volta c'era servizio militare che dava comunque a tutti i maschi un inizio, vedeva se tutto era a posto per quanto riguardava l'organo di riproduzione maschile. Adesso non è più così. Certo. Io mio figlio. Gli urologi si lamentano molto di questo, dicono peccato perché la visita che si faceva militare era veramente accurata e quindi permetteva di evidenziare, dottor Gargiulo, vero? Problemi certamente, che invece adesso non vengono diagnosticati perché i ragazzi non vanno dall'urologo. Esatto, soprattutto non conoscono l'andrologo che è il medico degli uomini e noi medici di famiglia in questo non siamo, diciamo, al massimo dell'attenzione. Noi dovremmo, come logica, nel momento in cui prendiamo in carico un bambino che è diventato ragazzo, lascia il suo pediatra e entra nello studio del medico di famiglia, la prima volta fare una visita completa, la più completa possibile, soprattutto valutando gli organi genitali. Il tumore al testicolo il più delle volte viene diagnosticato con la palpazione, quindi anche, e qui raccomandiamo ancora una volta, quando facciamo le nostre abluzioni quotidiane, quando la mattina ci laviamo, non dimentichiamoci di sentire che sia tutto a posto, sia gli uomini che le donne. Non è la prevenzione vera e propria quella, ma è la possibilità di sentire qualcosa di diverso, qualcosa di strano che ci potrebbe poi portare dal medico e farci fare una diagnosi precoce. Perché non si fa più una visita generalizzata a tutti i maschi e adesso addirittura anche a tutte le femmine, visto che il servizio militare è anche aperto alle donne? Purtroppo io non faccio il ministro della salute, lo facessi forse qualcosa. Chissà, prossimamente, dottor Gargiulo, se le capitasse si ricordi di noi. Emiliano dalla provincia di Trento, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Io chiamavo perché sono da qualche anno avvicinato al discorso della qualità del cibo, cerco di mettere anche per me, per la mia famiglia e i miei figli, cose buone dentro la dispensa e poi quindi dentro il piatto, dentro le padelle. Ma premetto, sono un autodidatta, mi sono avvicinato per pensare al portafoglio, ai gas, quindi ai gruppi di acquisto solidali, anche attivamente, e poi tutto il discorso del biologico e ha un'attenzione poi nelle corsie dei supermercati alle etichette, quindi attenzione ai coloranti, all'olio di palma, eccetera, eccetera, anche un po' poi all'autoproduzione, per cui basta biscotti comprati ma fatti in casa, eccetera, eccetera. La domanda è molto semplice e spero non troppo banale: tutto questo basta, è sufficiente a compensare comunque lo sforzo che si fa, sia economico ma di attenzione, cioè rispetto a entrare e riempire in un supermercato e riempire il carrello, semplicemente a stare lì, guardare, informarsi, chiamare il produttore per avere chiarimenti sull'olio vegetale non meglio definito? Tutto questo ha un peso poi sulla mia quotidianità, o devo fare altro o sto facendo abbastanza? Ecco, questa è la domanda. Grazie Emiliano, una domanda da 30 e lode che noi giriamo alla dottoressa Luini. Le chiediamo di rispondere e di darci anche delle indicazioni, di fare una sorta di carrello della spesa che può essere utile a tutti noi e quindi può anche fugare dubbi ad Emiliano. La domanda è La trovo meravigliosa, perché ogni volta che parlo di questi argomenti mi auguro che le persone che ascoltano sappiano che noi stiamo parlando di probabilità. Quindi gli sforzi per mangiare bene, sano, valgono la pena perché aumentano la probabilità di salute. Purtroppo non sono garanzia. Questo è importante perché quando si parla di prevenzione si rischia di cadere nell'illusione. Allora, mangiando bene e essendo attenti, noi aumentiamo la probabilità di essere sani e di guarire in fretta se ci ammaliamo. Non ne siamo sicuri. Quanto al carrello della spesa, regole generali, scegliere alimenti vegetali piuttosto che animali. Non significa dimenticarsi quegli animali, ma scegliere prevalentemente i vegetali. Cambiare i colori che mettiamo sul tavolo. Quando scegliamo verdure e frutta, ogni giorno cambiare qualità e colore. Avere sempre porzioni di frutta secca. Pensate che si è scoperto che le donne che mangiano il burro di arachidi, che a noi sembra una cosa terribile, in realtà queste donne hanno un rischio inferiore di tumore al seno di un bel 23%, non tanto per il burro, che in realtà il burro d'arachidi non è burro, ma per le arachidi, quindi frutta secca. Le crucifere, quindi i cavolini, i cavoli, il cavolfiore, cotti pochissimo, quasi crudi. Posso dare una piccola indicazione, perché l'ho sperimentata proprio l'altro ieri sera, un suggerimento di un mio amico cuoco. Cavolfiore ben lavato, spazzolato sotto l'acqua, grattugiato come se fosse il formaggio da grattugiare sulla pasta. E questo sapore è un modo anche, piace anche ai bambini, perché avevo un bambino di 8 anni a cena, e ho visto che l'ha gradito molto, perché ha un sapore. Questo è uno dei modi per mangiare il cavolfiore. Dottoressa Luini. Ottimo. Tra l'altro il cavolfiore crudo è il massimo della capacità preventiva, perché non si cuoce, non si alza la temperatura. Altro alimento ottimo, il pomodoro, per cui vale un discorso diverso rispetto al cavolfiore. Il pomodoro con la temperatura più alta, quindi cotto, in presenza di grassi, cioè l'olio extravergine d'oliva, libera tutte, sprigiona le capacità curative del licopene. E poi c'è la soia che contiene dei fitoestrogeni che, usati con l'alimentazione e non come sostanze di sintesi, quindi usati mangiandole, proteggono nei confronti del tumore al seno e del tumore alla prostata. I piselli hanno la stessa capacità. E poi l'aglio e la cipolla, che sono ubiquitari, alimenti che troviamo dappertutto. Poi lì le distanze di mezzo metro con aglio e cipolla. Ci dobbiamo salutare. Stavo così un po' pensando alla mia scorsa settimana, ero negli Stati Uniti, non ho comprato il burro d'arachidi perché dico no, non mi porto a casa tutte queste calorie, ho fatto male invece, però, perché era un ottimo però alimento. Si trova anche qui adesso, già le devo comprare i semi di goji. Esatto. Adesso il burro d'arachidi, ho capito che Deborah più di Rosciani vuole far fare la spesa a me, ma io faccio finta di niente e per questa settimana andrà così. Grazie al dottor Gargiulo, grazie alla dottoressa Luini, grazie per essere stati con noi. Adesso ritorniamo al nostro carrello della spesa, ma prima informazioni sul traffico. Baci baci ai nostri esperti. Cuore e denari. Eccoci ritrovate a Cuore Denari, per la parte denari Deborah Rosciani, per il cuore Nicoletta Carbone. Allora, abbiamo sentito nella prima parte del nostro programma come una buona prevenzione per le problematiche di salute passi anche dalle scelte alimentari. Ci ha molto colpito quello che ci ha raccontato l'ascoltatore, che compone in maniera così scrupolosa il suo carrello della spesa, pensa all'economia della famiglia ma pensa anche alla salute dei suoi familiari, per cui la crisi ha il suo lato positivo. Ci scrive un altro ascoltatore, mangiamo meno potere d'acquisto e stiamo meglio, e questo sottolinea un aspetto che su cui si è soffermata la dottoressa Luini. Bisogna anche ridurre un po' le calorie, quindi mangiare un po' meno, mangiare magari meglio. Esatto, però ci sono state molte famiglie che negli ultimi mesi hanno dovuto, loro malgrado, ridurre quello che comprano al supermercato, quello che comprano al mercato, perché la nostra busta paga si è alleggerita sempre di più, la crisi economica è ormai il tema dominante delle nostre discussioni e questa situazione ha messo tutti di fronte alla necessità di risparmiare su tutti i fronti, anche facendo la spesa. Sentiamo un po' questa nostra clip. Sì. Salva Danaio. Apro la busta paga che ho qua, ma non è, ma non è come aspettavo, come leggera, come una piuma, come una vela. Questa è una canzone degli anni 70, La busta paga di Fracchia, ma direi che può rappresentare in maniera molto significativa anche la situazione attuale. Buste paghe sempre più leggere e di conseguenza famiglie sempre pronte a più sacrifici, cara Nicoletta, anche sul fronte appunto della spesa al supermercato. Sei andata tu, allora mi dicevi stamattina, allora io mi hai comprato andrò, le bacche di goji? No, io, se sei stata attenta, ti ho detto che andrò oggi pomeriggio, sì. E non mi piace fare la spesa al pomeriggio, però il mio frigorifero perché? Piange. Che problema c'è? No, a me piace andare al mattino al mio mercato rionale e poi fare la spesa un po' con attenzione, invece quando la faccio verso sera sono trafelata, devo pensare, per cui oggi è un'eccezione, ma la spesa richiede sempre più tempo, perché scegliere il prodotto giusto, scegliere la qualità, il rapporto qualità-prezzo, quindi certo, ti guida nelle tue scelte? Assolutamente, io ho ridotto la quantità. Devo dire che sono molto, molto sul filone dell'ascoltatore che è intervenuto, che ho fatto delle scelte, anch'io vorrei appoggiarmi a un gas, per adesso non l'ho ancora fatto, ma mi sto muovendo in quella direzione, meno ma più buono. Chiediamo ai nostri ascoltatori come è cambiato il vostro carrello della spesa negli ultimi mesi, comprate meno, comprate prodotti di qualità di diversa. Noi commenteremo le vostre scelte con Rolando Manfredini, responsabile della sicurezza alimentare della Coldiretti, che salutiamo. Dottor Manfredini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo scelto questa associazione perché monitora molto frequentemente, molto attentamente le scelte di spesa della famiglia. Nella loro nota, in una loro nota recente, hanno detto: l'inflazione a settembre è in calo, anche perché il carrello della spesa si svuota con gli italiani che hanno tagliato il 4% degli acquisti alimentari. C'è un calo di circa 5 punti percentuali per gli acquisti di frutta fresca, meno 2,5% per i vegetali freschi. Dottor Manfredini, io le chiedo, traducendo questi dati, portandoli sulla tavola degli italiani, quali sono i prodotti a cui si rinuncia di più e la rinuncia è sempre attribuita al loro prezzo? Diciamo che la rinuncia quasi sempre è attribuita al loro prezzo, ma soprattutto anche ovviamente alla minore disponibilità che hanno gli italiani. Faccio un esempio, siamo su dei livelli che, per esempio, non so, riferendoci a prodotti che riguardano direttamente proprio la nostra dieta, quindi la dieta mediterranea, pensiamo per esempio, non so, all'olio d'oliva, abbiamo un meno 10% nell'olio d'oliva, al pesce che è un meno 13%, la pasta stessa meno 10%, ecco, sono tutti dati che preoccupano enormemente, ma quello che forse preoccupa di più, anche in relazione a quello che è stato detto precedentemente sul fatto di aumentare la probabilità di essere sani, l'ortofrutta e quindi la verdura e la frutta hanno dei cali che in percentuale sono veramente molto molto elevati. Gli ultimi dati del mese di agosto, diciamo, riportano un calo percentuale della frutta, della verdura fresca in valore del 5-6% e della frutta addirittura del 6,4%. Questo tra l'altro con grave pregiudizio anche per la categoria degli agricoltori, che non se la passa certo bene nel nostro paese. Un'ultima domanda perché poi dobbiamo chiudere. Secondo voi, dottor Manfredini, è possibile portare a casa una busta della spesa con prodotti di qualità senza farlo pesare troppo alle tasche? Ci dà qualche suggerimento da buon padre di famiglia? Ma guardi, noi abbiamo messo in piedi tutto un sistema che riguarda la vendita diretta e quindi l'acquisto direttamente dagli agricoltori e l'acquisto direttamente da chi produce. Questo ha due vantaggi, certamente sul prezzo, che è certamente inferiore, ha un vantaggio che si controlla subito la qualità, immediatamente la qualità, si sa da dove viene e di fronte abbiamo un agricoltore che ci mette pure la faccia e se succede qualcosa probabilmente ci rivolgeremo a lui per dirgli che la cosa non andava troppo bene, sia in termini di prezzo sia in termini di qualità. Questo è il consiglio che diamo noi, tant'è che queste vendite sono aumentate moltissimo, perché sono aumentate addirittura del 183% per la verdura e del 25% per la frutta, e questa è una performance che ha dell'incredibile. Voglio leggerle un messaggio che è arrivato da Elisa. Mangiare meglio non è mai risparmiare. Se vuoi carne buona, anche se solo bianca, se vuoi pesce, anche se quello povero come la varella e lo sgombro. La grande teoria di Nicoletta, tra l'altro. Se vuoi la frutta e verdura, anche se di stagione, beh, allora lo stipendio deve salire. Sapete cosa costa poco? I biscotti, le patatine, la pasta. Ovviamente nulla di biologico. Questo ci scrive Elisa. Grazie, dottor Manfredini, per essere stato con noi, ma torneremo a coinvolgerla su questi argomenti. Posso venire a fare la spesa con lei, dottor Manfredini? Sì, io invito molto, molto volentieri, le faccio da cicerone. Noi frequentiamo comunque Farmer Market perché ci piace. Non solo ci piace mangiare, ma ci piace mangiare anche bene. Grazie. Andiamo in pausa, Nicoletta, adesso c'è il giornale radio, poi con Cuore e Denari torniamo subito dopo con il tema della busta paga. Cuore e Denari. E sono le 12:11, quasi 12 minuti, ancora buongiorno da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Per Cuore e Denari adesso entriamo nei meandri di un tema, come dire, economico, finanziario, un po' complicato teoricamente, ma se ci mettiamo di buona volontà siamo in grado appunto di comprenderlo tutti. Aprite la vostra busta paga, cercate di non farvi il sangue amaro, diteci se comprendete tutte le voci che vi sono indicate. Soprattutto, vi siete mai chiesti come mai c'è una così importante differenza fra la cifra lorda che viene sborsata dall'azienda e la cifra netta che vi entra in tasca? Calcolate questa differenza, questa percentuale, raccontatecelo all'800240024. Nicoletta, regaliamo un libro al primo ascoltatore che ci chiama? Dai, mi piace. Ne ho tanti del Sole 24 Ore, regaliamo qualche libro. Potete scriverci messaggi al 349-238-6666 e come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Questa differenza, della quale vi ho dato adesso una piccola definizione, si chiama cuneo fiscale ed è un tema del quale si sta parlando molto in questi giorni perché, come sapete, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha promesso che vuole ridurre questo cuneo in modo da alleggerire gli oneri che gravano sulle imprese e anche in modo da mettere qualche soldino in più in tasca dei lavoratori. Sentiamo Enrico Letta questa domenica intervistato da Sky TG24. Bisogna che in Italia il costo del lavoro scenda, cioè bisogna che non succeda come succede oggi, che per dare un lavoro a una persona, un imprenditore, un datore di lavoro ci mette 100 e quella persona di quei 100 alla fine in busta paga vede 50. Anche è meno, una cosa insopportabile, perché spinge il lavoro nero, crea un sacco di problemi che ovviamente sono il cuore del nostro guai. La produttività scarsa del lavoro nasce di lì. La legge di stabilità per noi avrà come cuore la riduzione del cuneo fiscale. Nel 2014 i lavoratori italiani avranno un beneficio in busta paga. Questo è un impegno. E allora scopriamo cosa bolle in pentola, ci aiuta a capirlo il nostro consulente del lavoro Alessandro Rottaporta, che ci ha raggiunto negli studi di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, una decisione sul cuneo fiscale dovrebbe essere presa questa settimana per garantire un abbattimento del carico fiscale sul lavoro. Ci sono ancora diverse opzioni aperte sia sulla tipologia di intervento sia sull'estensione della misura, ma prima di tutto andiamo alla parola chiave, dottor Rottaporta. Io ho dato una definizione di cuneo fiscale, era corretta? Era un po' troppo superficiale, ci aiuta a capire qualcosa di più? Sì, allora partiamo dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio, che ha fatto un esempio matematico e questo può rendere chiarezza. Allora, fatto 100 il costo del lavoro e 50 quello che entra in tasca direttamente al dipendente in busta paga, ecco, il cuneo fiscale è proprio il differenziale tra 100 e 50, quindi questi 50 che appunto questo dato di 50 rappresenta tutti gli oneri che sono sostenuti sia dall'azienda che dal lavoratore attraverso le trattenute che gli vengono applicate in busta paga e che quindi vanno a pesare sia sul datore di lavoro che sul lavoratore. Direi che, se vogliamo essere ancora più precisi, si parla genericamente di cuneo fiscale, ma è cuneo fiscale contributivo, perché su quella quota di 50, quindi su questo differenziale, pesa sia il carico fiscale ma anche il carico degli oneri contributivi e dei premi assicurativi. Quindi l'azienda versa per noi determinate tasse, l'azienda versa per noi anche i contributi che poi andranno a formare nel futuro, chissà quando, tra l'altro questo è un altro tema, la nostra pensione. Peraltro, quando ha detto la parola trattenute, Nicoletta, mi è venuto in mente il mio papà qualche anno fa, quando c'era ancora, apriva la busta paga e mi diceva: ma guarda quante trattenute avevi, non capivo che cosa fossero, mai avrei pensato che un giorno dovevo spiegarlo in radio. 1240 netti, 1650 lordi da piangere, ci scrive un ascoltatore. Alessandro Rottaporta. Ecco, allora, il lordo è il passaggio intermedio tra il costo del lavoro e il netto in busta paga. Perché? Perché sul quella cifra lorda che ha menzionato l'ascoltatore, il lavoratore ha una decurtazione perché viene prelevata la sua quota di contribuzione normalmente genericamente all'INPS o alla cassa in questione, e c'è il prelievo fiscale che il datore di lavoro opera come sostituto d'imposta, cioè trattiene al lavoratore e versa lo Stato. Però nella parte di differenziale tra quel lordo che ha menzionato l'ascoltatore e il costo totale che sostiene il datore di lavoro, c'è anche tutta la quota a carico dell'azienda, perché l'azienda sì trattiene la parte del lavoratore, ma poi ci mette anche del suo. Quindi so che è difficile che magari un lavoratore lo comprenda, ma effettivamente per una cifra 1000 che il lavoratore appunto vede in busta paga nel suo portafoglio, in realtà l'azienda deve sborsare appunto molto l'azienda di più. Diciamo che, per fare proprio un conto molto semplicistico, spende mediamente quasi sempre il doppio rispetto a quello che il lavoratore prende come netto in busta paga. Dottor Rottaporta, in che maniera viene stabilita la cifra che l'azienda versa a fisco e previdenza? È uguale per tutti i lavoratori o cambia a seconda dei contratti? Allora, qui dobbiamo sempre ragionare lato azienda e lato lavoratore. Allora, lato lavoratore, mediamente la trattenuta previdenziale è intorno al 9,50%, quindi la trattenuta all'INPS, e poi invece le ritenute fiscali variano a seconda del reddito del soggetto interessato. Poi ci sono tutti appunto gli oneri a carico dell'azienda, e lì più o meno sono molto simili tra un settore e l'altro, anche se ad esempio nel caso dell'INPS ci sono delle variazioni, ci sono delle tabelle contributive che proprio si distinguono tra i settori. Allora, noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori a chiamarci, a prendere in mano la loro busta paga e a metterci al corrente, se vogliono, di quelle voci che non comprendono, così Alessandro Rottaporta ci aiuterà a decifrarle. Però Nicoletta, magari anticipiamo che dopo parleremo anche di una cosa un po' più leggera legata alla busta paga e anche un po' divertente, anche se io temo che sia un po' una bufalina. Andremo a vedere se è una bufalina, ma sembra che il sesso renda ricca, o meglio, che più si è focosi più si guadagna. Fare l'amore almeno 4 volte alla settimana, secondo una ricerca, si tradurrebbe... Il tuo esperto ride. Lui sorvigna. Ride, sì, chissà, con tutte le buste paga che produce per molte aziende della sua zona. Le risulta questa combinazione, Rottaporta? Ma io sono intermediario, quindi non... Lei se vuole mantenere neutrale rispetto a questo argomento. Beh, comunque, se lei vuole fare aumentare, poi verificheremo, la sua busta paga del 5%, 4 volte alla settimana. Alex da Brescia intanto ci scrive: io sono un imprenditore, l'operaio mi costa mediamente 30 euro orari, ma il lavoratore in busta percepisce netti circa 12 euro. Con le manovre che si stanno facendo, Rottaporta, secondo lei quanto risparmio si vorrebbe far garantire alle aziende, e quanti soldini in più in tasca appunto ai lavoratori? Anche se sono un po' complicate, complesse, però insomma, e anche, come dire, la discussione è tutta politica in queste ore, non sappiamo neanche se il provvedimento si faccia. Allora, guardiamo il quadro attuale. Quindi fino ad oggi i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno fatto solo degli interventi spot. Facciamo un esempio: dal punto di vista dell'azienda, sgravi per determinate tipologie di assunzione, sgravi contributivi, dal punto di vista del lavoratore, detassazione dei salari legati alla produttività. Quindi ci sono stati degli interventi che non hanno avuto fino ad oggi una natura strutturale. Ecco, quello che ci sta promettendo l'attuale governo è di incidere in maniera organica, quindi andando a abbassare probabilmente la tassazione, perché quello è uno dei pochi interventi possibili a carico del lavoratore, quindi abbassare le aliquote fiscali, e dal lato azienda abbattere gli oneri. Si parla di un abbattimento, ad esempio si sente parlare di un abbattimento degli oneri INAIL, quindi legati all'assicurazione contro gli infortuni. Si parla di un abbattimento di in qualche punto percentuale sul peso contributivo. Queste sono le cose, quindi, che stiamo leggendo. Razionalizzazioni di tutte, ecco, queste voci. A proposito, scusa, sì, Deborah, perché io combinato? Qua no, perché per alcuni lavoratori, ad esempio, viene versato anche un premio INAIL. Sì, infatti ce lo diceva. No, l'abbiamo sentito. Però io mi chiedo, a che titolo? Perché devo pagarlo anch'io che ho un'assicurazione privata? per contro esempio gli infortuni e queste problematiche? Allora, è un obbligo normativo, quindi qualsiasi lavoratore, sia esso dipendente o anche parasubordinato, quindi il caso dei lavoratori a progetto ad esempio, che sia soggetto a un rischio, che può essere anche un rischio dall'utilizzo di una apparecchiatura elettronica, quindi un PC, deve essere assicurato dal datore di lavoro presso l'INAIL, quindi è un obbligo che discende da una disposizione legislativa. Quindi chi è che ha, come dire, una protezione privata non può tirarsi indietro, non può esimersi dal versare, appunto, anche se lo fa l'azienda per questo lavoro. È semmai una cosa aggiuntiva. Ma non... Allora, abbiamo... quanti sms? Beh, sono contenta, manderò libri a tutti oggi. Devo dire che la cosa del sesso e busta paga è perfetto, lo dico subito a mia moglie, vado a casa da lei in pausa pranzo. Daniela D'Abrescia. Grande Daniela, invece altri ascoltatori ci fanno la loro proporzione fra stipendio lordo e netto: 2500 lordi per questo autotrasportatore, 1800 netti in busta. Ancora un altro ce n'era, sono un imprenditore, questo l'ho raccontato prima, costo orario del lavoro in Italia 28 euro, in Germania 33, anche il lordo è molto basso, questo è un altro aspetto. Marco da Tortona, 9400 euro lordi, beh, insomma un bello stipendio, 5500 netti, lo stipendio è alto, però anche la differenza effettivamente che c'è. Possiamo andare a Treviso da Gianni? Certamente, Gianni buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, allora intanto abbassi un pochino la radio perché sentiamo il rientro e ci... Eccoci qua, bravo, ci dica Gianni. No, volevo dire, l'altro giorno ho assunto un paio di apprendiste che mi servivano. Busta paga 1,50 euro commesse, mentre quelle che le più vecchie prendono 1.300 euro dopo 5 anni di lavoro. È possibile mai una cosa del genere? Quando in Germania costa 40-50% in meno lo stipendio di un apprendista. Certo, in questo caso... Dica. No, Gianni, la lascio concludere, ci mancherebbe. Ma io sto, poi io non sono d'accordo, il discorso tredicesima, quattordicesima, ferie, tutto pagato, tutto tassato, è una cosa assurda, tassare, cioè noi lavoriamo alla fine 5 mesi, 6 mesi all'anno, 7 mesi all'anno, il resto dove riprendiamo i soldi per pagare tutte queste certo. spese? Certo, Gianni, allora non lei... Non ce la facciamo più, io sono nel parto frutta e verdura, noi abbiamo un calo del 50%. Ho chiesto l'abbassamento degli affitti, mi dicono non è possibile, non è possibile. Mi ha detto lascia libero, piuttosto lasciamo libero. Cioè se ne fregano, stiamo parlando di gente che ha immobili, che ha soldi, preferisce lasciare i mobili sfitti piuttosto che abbassare il prezzo degli affitti. Gianni, noi... quasi, se prima l'anno scorso pagavo 350 euro ogni due mesi, adesso pago 500 euro. Gianni, lei ci ha dato uno spaccato molto reale della situazione appunto che ci circonda e che conosciamo molto bene. Con tutto il rispetto per la sua molto accalorata appunto presa di posizione, vorrei limitarmi a commentare il tema dell'apprendista assunta Alessandro Rotaporta, perché su questi contratti abbiamo fatto in passato molte puntate di Salvadanaio. Il tema è che in questo caso l'azienda investe su una persona che prende e gli insegna anche un mestiere, però certo che fare la commessa magari uno dice ma perché deve fare anche un percorso di questo tipo? Beh, lì bisogna seguire quello che dice il contratto nazionale, quasi tutti i contratti nazionali hanno regolamentato l'apprendistato, quindi ci sono delle regole per cui anche su determinate mansioni c'è un percorso formativo previsto e l'azienda comunque ha i suoi vantaggi perché comunque paga una contribuzione in alcuni casi che è quasi pari a zero o in altri casi decurtata di quasi un 30%, quindi c'è da un lato l'onere di dare formazione al lavoratore, ma dall'altro c'è uno sgravio importante sui contributi. E poi questi contratti sono a tempo? Sono a tempo indeterminato, per cui c'è anche questa garanzia diciamo per il lavoratore. Sì. L'ultima domanda che prendiamo, poi manderemo il nostro libro, se vuole lasciarci il suo indirizzo, a Gianni da Treviso, ma lo manderò anche a Marco da Pordenone, di cui sentiamo la domanda rapidissimamente, grazie. Sì, rapidissimamente, buongiorno a tutti, buongiorno. E complimenti per la trasmissione che mi tiene compagnia, rientro da casa a mezzogiorno. Grazie Marco. Ecco, una cosa volevo chiedere, io sotto i miei occhi diciamo la busta paga che dà un totale lordo di 2100 euro, ho un totale netto di 1500. Volevo chiedere, mi sono perso sicuramente un pezzo della trasmissione perché ero al telefono, la differenza, cioè l'intervento del governo sta in quali termini, cioè dovrebbe stare in quali termini? Marco, qua sa, le opzioni sono tante, diciamo quelle che possono essere più gettonate, Alessandro Rotaporta. Ma gettonate potrebbe essere appunto un abbattimento delle aliquote fiscali sui redditi da lavoro dipendente, quindi andare a sgravare le imposte che sono applicate in busta paga dal datore di lavoro e trattenute quindi al lavoratore, e poi si parla appunto di rendere strutturale la detassazione sui salari incentivanti, quindi legati a premi, a elementi di di produttività, quelli sono un po'... Un profilo come quello di Marco, quanto potrebbe vedere incrementata la sua busta paga in termini netti? Ma fare dei numeri oggi è difficile perché non abbiamo la base di discussione, però dipende tutto da quello che vorrà fare il governo. Comunque già solo qualche punto percentuale di aliquote IRPEF può dare vantaggi già nell'ordine di qualche decina di euro. È logico. Allora, grazie ad Alessandro da Porta. Ce la facciamo a chiudere in bellezza, Nicoletta? Vediamo se ci aiuta il dottor Marco Rossi, sessuologo e psichiatra, che è in linea con noi. Dottor Rossi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Questa notizia delle 4 volte alla settimana sotto le lenzuola fare sesso, che aumentano del 5% la busta paga, devo dire che ha attizzato i nostri ascoltatori. Molti mi hanno scritto: vado in pausa pranzo. Vedo che si sta alzando anche il nostro ospite, forse va anche lui a raggiungere la moglie. Dottore, ci crediamo o non ci crediamo? Abbiamo un minuto di tempo. Sì, ma dobbiamo inquadrarla questa ricerca, nel senso che non è il sesso che fa aumentare la busta paga, ma è la condizione di salute generale, di benessere della persona che fa guadagnare di più e fare più sesso. Cioè non è che le due cose sono legate, nel senso sesso verso soldi, semmai potrebbe essere da dire benessere verso soldi e verso sesso. È un equilibrio che si deve creare, tant'è vero che molte volte diciamo che troppo stress da lavoro fa diminuire il sesso, quindi ci vuole un equilibrio. Le persone che stanno bene, lavorano tanto ma in maniera sana e guadagnano di più, fanno anche più sesso. Benissimo, quindi l'idea è anche di trovare il lavoro che ci piace, Nicoletta. Ah, pensavo al partner, ecco, giusto. Vabbè, anche quello potenzialmente, insomma, non è che ci fa schifo, per carità. Dottor Rossi, grazie, buona giornata. Per averci aiutato ad approfondire questo tema così interessante, ottimo. Nicoletta, siamo arrivati al termine anche oggi, ringraziamo Alessandro Lottaporta che si è scomodato dal Monferrato fin qua per venirci a fare compagnia, a spiegarci questo tema. Ha fatto bene, perché noi portiamo cuore e denari, quindi portiamo fortuna. Anche questo, sì, non lo sapevo, questo però. Senz'altro, io molto lo so, bene. Ne sono certa. Bene, ci sentiamo domani allora a partire dalle 11, sempre qui. Ringraziamo Carmelo Lauricella, sì, Marco Lombardo e Laura Vanossi, i nostri angeli custodi ribattezzati così da ieri. Ci risentiamo domani. Noi ci vediamo subito dopo la trasmissione. Grazie. Grazie ad Alessandro Lottaporta. A domani, buona giornata.